Il mio intervento è intitolato Helen Waddell e Pietro Abelardo e tratto della vita e dell'attività di questa medievista irlandese, Helen Waddell, e in particolare di un romanzo storico dedicato a Pietro Abelardo che pubblicò nel 1933. Nel 1933, quando Helen Waddell pubblica Peter Abelard, ha già un'identità intellettuale definita e una reputazione internazionale come medievista. È l'autrice di The Wandering Scholars, uscito nel 1927, una storia letteraria e culturale della poesia medievale latina, da Prudenzio ai Carmina Burana. Un grande successo di pubblico, 3 edizioni in un anno, e di critica, elogiato da storici eminenti come Huskins negli Stati Uniti, Powick e Eileen Power in Inghilterra, Ferdinand Law e Henri Bremond in Francia. Ma Peter Abelard non è un libro di storia, non è nemmeno un romanzo storico, ma semplicemente, come suona il suo sottotitolo, è novel. Perché una studiosa reduce da vari anni di lavoro sui manoscritti latini della Bibliothèque Nationale di Parigi decide di scrivere un romanzo anziché un libro di storia? Certamente non per difetto di interesse o capacità per la ricerca. The Wandering Scholars è frutto di una immersione profonda nelle fonti classiche della vita religiosa e letteraria medievale, dalla patrologia latina ai poeti latini carolinievi ai concilia del Mansi. È nella patrologia latina che Helen aveva incontrato Pietro Abelardo, quando ancora una studentessa. E in vari modi Peter Abelard, pur essendo un romanzo, è una prosecuzione del lavoro cominciato con The Wandering Scholars, un'elaborazione delle stesse fonti. Leggere oggi insieme The Wandering Scholars e Peter Abelard è un'esperienza interessante. The Wandering Scholars mostra più chiari segni del passare del tempo, anche se sono ancora discernibili tracce di quella bellezza che i contemporanei riconobbero al testo unanimemente. Ma non scriviamo più libri di storia nel modo in cui fu scritto questo libro. Storia letteraria e storia sociale si sono allontanate l'una dall'altra in un modo che fa apparire goffa la combinazione di entrambe tentata da Waddell. Squisita traduttrice, dotata in effetti di originale talento poetico lei stessa, Helen cosparge il testo di citazioni dai poeti, incastonandole in una prosa densa di allusioni letterarie. Questo può oggi fare l'effetto di uno stile, per così dire, belletristico e fuori moda. Ma The Wandering Scholars brulica anche di pagine che catturano l'attenzione dello storico sociale odierno. Pagine in cui i manoscritti della Bibliothèque Nationale vengono presentati come, lei dice in The Wandering Scholars, a quarry for life, una miniera di vita. Cito, accanto agli atti formali di una cancelleria reale, alle lettere di raccomandazione di un vescovo per un chierico, a richieste di cavalierato e lascite testamentari, si trovano lettere d'amore che esprimono la più vasta gamma di sentimenti, dai dubbi dell'equivoco fino alla più squisita e fantastica fuga nel sogno. The Wandering Scholars è dunque una strana combinazione di démodé e di moderno, che ci ricorda come il modo di scrivere la storia invecchi presto. La bellezza di Peter Abelard, invece, non sembra toccata dal tempo. Eppure, tanto The Wandering Scholars che il romanzo sono in gran parte elaborazione della stessa esperienza di ricerca. Il testo è frutto di 20 anni di intensa frequentazione delle fonti e in effetti Helen coltiva a lungo, fino alla fine della vita, il sogno di curare un'edizione critica delle lettere di Eloisa e Abelardo, non ancora disponibile al tempo. La produzione intellettuale di Helen Waddell restò sempre intenzionalmente a cavallo fra ricerca storica e letteratura, fra il mondo dell'accademico e quello dell'artista. Questo è, del resto, il terreno su cui si colloca molto del contributo delle donne alla scrittura della storia nell'Ottocento e ancora nella prima metà del Novecento. Il suo caso mi pare esemplare, o quantomeno utile, per capire non solo le ragioni storiche di questa collocazione liminare delle donne che scrivono storia, ma anche i vantaggi e gli svantaggi di questa loro marginalità. Chi era Helen Waddell? Nata a Tokyo nel 1889 da padre e madre irlandesi, Il padre, pastore presbiteriano, missionario in Cina e Giappone per oltre 30 anni, Helen non riceve, come buona parte delle bambine del tempo, un'istruzione regolare. I suoi fratelli vengono mandati in Europa a studiare medicina o teologia per prepararsi a una futura carriera medica o ecclesiastica. Helen, invece, impara a leggere e scrivere in casa, in stretto contatto col padre, sui testi biblici ed evangelici, con cui sviluppa una dimestichezza profonda. A 9 anni sapeva a memoria le lettere di Paolo agli Ebrei. In una lettera del 1917, le fonti che uso per la vita di Helen sono... c'è una ricchissima collezione di lettere, e soprattutto alla sorella, che è conservata alla Queen's University a Belfast. In una lettera del 1917, Helen descrive il momento iniziale della passione per la poesia latina cristiana che la porterà a scrivere The Wandering Scholars. Cito: «La prima volta che lessi Uncle Tom's Cabin, la capanna dello zio Tom, devo aver avuto 9 anni, e il ricordo più chiaro che ne ho è il senso di venerazione che mi prese davanti ai 3 versi del Dies Irae. Ricordare Jesu Pie, quod sum causa tue vie, ne me pertas illa die. Quel che provai era in parte un senso di vera e propria reverenza davanti alla maestà del latino, una reverenza che credo non ho mai cessato di sentire, ma ancora in parte, mi piace pensare, era semplicemente l'incanto delle parole stesse». Fine della citazione. La bambina di 9 anni, avvinta dall'incantesimo del latino, sarebbe tornata in Europa 2 anni più tardi, dopo la morte del padre, per ricevere un'educazione più regolare, prima in una scuola superiore femminile e poi iscrivendosi nel 1908, grazie a una borsa di studio, alla Queen's University a Belfast. Helen è una studentessa eccezionalmente brillante, contesa fra la passione per la matematica e quella per la letteratura. Quest'ultima vincerà nella persona del suo professore di letteratura inglese, George Gregory Smith, 1863-1932, una figura importante nella vita di Helen, da lei variamente chiamato il suo padre confessore o anche Gregory the Great, Gregorio Magno. Degli anni di Queens è anche la profonda amicizia con Maud Clark, entrata a Queens nel 1910 per studiare storia col professor Powick. Maud Clark è l'alter ego accademico di Helen. A differenza di Helen, Maud avrebbe avuto una regolare carriera accademica a Oxford, come tutor e poi come lecturer in storia. Le strade delle due amiche divergono presto. Maud, che aveva conseguito il BA con First Class Honors in storia col professor Powick, vince una borsa di studio per Oxford, il college Lady Margaret Hall. Helen, invece, dopo un BA e un Master a Queens, decide di rinunciare agli studi di dottorato a Oxford perché è l'unica, per ragioni familiari, perché è l'unica dei fratelli che può stare accanto alla matrigna, Martha Waddell, affetta da alcolismo. Solo nel 1920, dopo la morte di Martha, Helen si sentirà libera di lasciare Belfast per studiare a Oxford. Così, mentre Maud scopre con entusiasmo la Bodleian Library, la paleografia e le citazioni della scoperta intellettuale, Helen resta a Queens. Il suo advisor, Gregory Smith, profetizza, non senza qualche compiacimento, cito: «La tua carriera sarà letteraria e non accademica». Per tutta la vita Helen sentirà la tensione fra questi due poli, la letteratura e la storia. Immersa nelle fonti, reagirà, per esempio, all'effetto deprimente della misoginia di certa letteratura medievale, cercando rifugio in una delle sue attività preferite, tradurre poesia, e pubblica tra l'altro delle traduzioni di poesie dal cinese, Lyrics from the Chinese, nel 1913. Ma la tensione fra professionalità accademica e vocazione artistica è anche collegata per Helen con la sua collocazione precaria, in quanto donna, all'interno del mondo maschile dell'Accademia. Vi sono indubbi segni della sensibilità di Helen per le questioni sollevate dal femminismo di quegli anni. La sua è la prima generazione di ragazze che entrano all'università dopo le grandi battaglie suffragiste del periodo prima della Prima Guerra Mondiale. Il loro mondo mentale è profondamente segnato dal suffragismo. Così è sintomatico il tema che Helen sceglie per la tesi di dottorato a Queens: la donna come risorsa drammatica, una storia della rappresentazione della donna dal dramma medievale a George Bernard Shaw. Il professor Gregory accetta la sfida, definendolo ottimo tema, assolutamente nuovo. Gli anni di Queens sono segnati per Helen dalla frizione costante con la misoginia imperante negli ambienti accademici, particolarmente impersonata dal suo advisor, George Gregory Smith. Il rapporto di Helen con Gregory è illuminante per comprendere l'ostilità e diffidenza che le prime donne entrate nella vita accademica dovevano affrontare. La straordinaria tenacia del pregiudizio contro di loro diventa particolarmente evidente negli anni della Prima Guerra Mondiale, quando la mobilitazione degli uomini sul fronte rende necessario all'università, come in tanti altri settori della vita economica, sostituire il lavoro maschile con quello femminile. Nel 1916 Helen scrive, cito, «A meno che l'antifemminismo di Queens sia troppo forte, Maud, la mia Maud, la sua amica, avrà la cattedra di storia per un anno». Powick era appunto il professore di Maud Clark che aveva dovuto lasciare Belfast e quindi il lavoro all'università per prestare servizio civile a Londra. Powick vuole che lei prenda il suo posto fino alla fine della guerra. Ci sono alcuni uomini, come Gregory, che sono assolutamente contrari ad affidare l'insegnamento a una donna, ma c'è un altro principio a loro, perlomeno a Gregory, altrettanto caro e che potrebbe controbilanciare la loro ostilità. Il principio vale a dire che ciascun professore ha il diritto di fare quel che gli pare e piace. Maud ottiene l'incarico, ma è chiaro che si tratta di una misura di emergenza. Le donne stavano fungendo da tappabuchi in ogni settore della vita del paese e perfino il mondo rigorosamente maschile dell'Accademia era costretto a schiudere le sue porte. Con quale e quanta riluttanza è mostrato dal comportamento del professor Gregory nei confronti di Helen. Gregory è una delle tante figure paterne di cui la vita di Helen è costellata. Nella tipologia che hai costruito tu del due tipi di donne, quelle che hanno rapporti soprattutto con una figura paterna, quelle con cui il rapporto con la storia si lega a una figura paterna oppure a una figura di partner, Helen decisamente appartiene al primo tipo, anche se con risultati diversi da quelli della tua tipologia. Uomini che ne riconoscono le straordinarie doti intellettuali e sono affascinati dalla sua intelligenza, ma che non riescono a superare un generale pregiudizio verso le donne. Per lunghi anni Helen mantiene una fitta corrispondenza con figure maschili che la adottano dapprima come figlia spirituale, ma che finiscono poi per riconoscere in lei una pari. George Pritchard Taylor, missionario in India, quello che più si accosta alla figura paterna, un missionario come il padre, e con cui Helen condivide profondi interessi teologici e religiosi, e George Sainsbury, professore di retorica e letteratura a Edimburgo, storico e critico letterario di fama, amico di Gregory e come lui uomo di Oxford, con cui il rapporto diventa ben presto un gioco di seduzione reciproca fra due menti accomunate da uno sconfinato amore per la letteratura. Ma negli anni di Queens il rapporto con Gregory è il più importante e probabilmente quello che lascia l'impronta decisiva sui sentimenti di Helen verso il mondo accademico. Helen è chiaramente un'allieva modello e Gregory ne ammira le doti, ma tende, suo malgrado, a incanalarla verso un futuro nella letteratura anziché nella ricerca. L'ambivalenza a questo proposito era certamente in Helen stessa, ma non c'è dubbio che Gregory la spinge verso il mondo della belletristica, il mondo del dilettantismo, come più adatto ad una donna. Un episodio cruciale avviene nel 1916, quando Maud ottiene l'incarico di storia e Helen, pressata da problemi finanziari, chiede a Gregory, dato che il suo assistente sta per essere chiamato alle armi, di affidarne a lei il posto. In una lettera a Taylor, Helen racconta, cito, «Ti ho detto che ho parlato con Gregory del posto di assistente a Queens. Ora so che non lo avrò mai, a meno che non vi sia assolutamente nessun uomo disponibile. È il vecchio pregiudizio, rafforzato da Oxford e da 20 anni di disciplina accademica. Dare il posto a una donna infrangerebbe le tradizioni di un'intera vita. Sono contenta che ne abbiamo parlato apertamente, perché in parte temevo si trattasse di una questione personale, che mi trovasse personalmente inaccettabile come collega. ma mi ha detto invece chiaramente che anzi preferirebbe avere me come assistente, se non fosse per questo suo inveterato pregiudizio. Quando un posto di assistant lecturer sembra liberarsi nel 1919, Helen torna alla carica, chiedendosi se il vecchio pregiudizio cederà alla fine. È solo con immensa riluttanza che Gregory infine acconsente, ma la possibilità ventilata va comunque in fumo. Questo è il muro, ormai in più parti sgretolato e malfermo, ma non di meno ancora saldamente in piedi, che ostacola l'ingresso delle donne nel mondo accademico negli anni 20 e 30. Era un muro in gran parte eretto nell'Ottocento, durante la professionalizzazione, come ha ricordato Brigitte, ma le cui fondamenta appoggiavano sugli strati più antichi e profondi della tradizione intellettuale europea. Recentemente Bonnie Smith, nell'articolo che anche Brigitte ha citato, un articolo che è uscito sulla American Historical Review del 95, ha mostrato come la professionalizzazione della storia nel secolo scorso sia avvenuta in uno spazio sociale, il seminario alla Ranke, che era stato intenzionalmente costruito per essere un mondo senza donne, e cito il titolo del libro di David Noble. Seminari e archivi, scrive Smith, erano spazi riservati esclusivamente agli uomini nella professione ed è per questo che il lavoro professionale della ricerca storica si può considerare intrecciato con la costruzione dell'identità maschile nel secolo XIX. Né si può dire che questa riluttanza ad ammettere le donne sia un fatto solo ottocentesco. La ricerca di Peter Schoettler su Lucie Varga ha documentato in modo emblematico la rigidità e gli ostacoli incontrati da una storica di talento negli ambienti delle Annales, il simbolo stesso della ricerca storica più innovativa della prima metà del Novecento. La possibilità di assistantship per cui Helen aveva strappato a Gregory una riluttante promessa va in fumo. Nello stesso anno, 1919, invece, Maud Clark diventa tutor di storia per Somerville College a Oxford. È in questa occasione che Helen, pur felice del successo dell'amica, scrive con insolita amarezza a Taylor: «Quando rinunciai a Oxford, molti anni fa, non sapevo che mi avrebbe fatto così male. A che pro Dio ha dato un cervello alle donne?» E per la religiosissima Helen questa è veramente una frase molto, molto insolita. Solo nel 1920, quando Helen ha 31 anni, la morte della matrigna la libera dalle responsabilità familiari che le avevano impedito di lasciare Belfast e di dedicarsi interamente alla ricerca. Helen va a Oxford, dove riprende il lavoro sull'origine secolare del dramma cominciato vari anni prima a Queens. Ma anche Oxford si rivela, nelle parole di Helen, «a provokingly intangible stone wall», un muro di pietra di frustrante intangibilità. Nel 1922 Helen decide di andare a Londra a fare ricerca al British Museum e presentare la sua tesi di PhD come studente esterno. È chiaro che ha sempre più dubbi sulla sua capacità di adattarsi alla vita accademica. È in questa occasione che scrive a Sainsbury: «Ho una gran paura che artisti e giornalisti siano il mio tipo più che gli accademici». La svolta nella vita di Helen arriva nel 1923, quando un college di Oxford, Lady Margaret Hall, le assegna una fellowship per un progetto di ricerca sui clerici vagantes. I 3 anni di borsa di studio le permettono di andare a Parigi a lavorare sui manoscritti latini inediti della Bibliothèque Nationale, di portare la sua reverenza per il latino, il suo appassionato interesse per il Medioevo, finalmente nella ricerca. Gli anni di Parigi sono anni di immersione totale nelle fonti. Al momento, scrive Helen alla sorella nel 1924, sto facendo una cosa incredibile. Non leggo nient'altro che quello che leggevano i clerici vagantes, per scoprire, con mente svuotata del presente, l'ambiente in cui viveva la loro immaginazione. Così Helen avanza con paziente fatica sui volumi della patrologia latina, oltre che sui manoscritti della Nationale. Ed è qui che si rinnova l'incontro con Abelardo. Sin dal 1913, quando aveva 24 anni ed era un undergraduate a Queens, Helen aveva concepito un appassionato interesse per questa figura di inauditarum assertor novitatum, come lo chiama in The Wandering Scholars. L'incontro con Abelardo è descritto in una lettera straordinaria che Helen manda alla sorella nel 1924. Sotto lo stress mentale e fisico della totale immersione nel lavoro sulle fonti, Helen si era ammalata ed era stata ricoverata all'Istituto Pasteur. Descrivendo la malattia alla sorella, Helen racconta come una notte, cito, «Mentre ero del tutto sveglia e penso non delirante, passai in uno strano stato di alterazione. All'improvviso ero Eloisa, non come l'avevo sempre immaginata, ma vecchia, badessa del Paracleto, 20 anni dopo la morte di Abelardo, e sedevo su un grande scranno facendo lezione alle monache sulla sua Introductio ad Theologiam. Era quasi la fine della lezione. Dopo la benedizione restai seduta guardandoli uscire dalla stanza a due, e una di loro, la più giovane e graziosa delle mie monache, per la quale sentivo una certa indulgenza, mi guardò di sfuggita mentre si allontanava, e la udì sussurrare alla sorella più anziana al suo fianco. Parla sempre di Abelardo. Fu come una trafittura, e dopo il primo spasimo, il rendersi conto che quello che era stato un tempo oggetto di gloria nella mente degli uomini era diventato la stanca tiritera di una vecchia. Mi chiesi se non fosse vero, se forse non insegnavo la sua teologia dopo tutti questi anni solo per poter qualche volta pronunciare il suo nome. Poi venne il mattino e senza soluzione di continuità ero di nuovo me stessa, ma con piena coscienza dell'altra donna che ero stata la notte. E quando la madre superiora venne a visitarmi più tardi, le dissi, ridendo, «Ma mère, anch'io sono stata una badessa ieri notte». Questo passo rivela cosa significava fare storia per Helen Waddell. Lavorare con puntiglio e pazienza sulle fonti fino a raggiungere, attraverso l'uso dell'immaginazione, un coinvolgimento estremamente intenso nella vita del passato. La caratteristica della mente di Helen è che si muove simultaneamente sul piano della ricerca e su quello dell'immaginazione. Le sue lettere sono piene di resoconti del suo modo di lavorare che indicano come ricerca e creatività fossero per lei inestricabilmente intrecciate. Helen descrive spesso, per esempio, come riesce a superare un blocco nella stesura di un capitolo grazie a una temporanea diversione nella composizione di una poesia. Nel caso di Helen, l'immaginazione nutre la ricerca e nello stesso tempo la ricerca potenzia e scatena l'immaginazione. Paradossalmente, sarà proprio il successo degli Wandering Scholars a spingere Helen a scrivere del suo incontro con Abelardo sotto forma di romanzo, anziché di storia. Completata la fellowship nel 1925, Helen torna a Londra per lavorare sui manoscritti del British Museum. Varie circostanze la spingono ormai fuori del mondo accademico. In ansia perché priva di una fonte di reddito dopo la fine della fellowship, d'impulso cerca e trova lavoro presso una casa editrice, Constable, con cui resterà per il resto della vita. Ora che ha un lavoro, non ha più bisogno di fare la frustrante trafila per un posto all'università. Decide quindi di pubblicare il manoscritto degli Wandering Scholars come libro, anziché presentarlo come tesi di PhD, rinunciando così al dottorato Oxford. Non ebbe mai il dottorato. The Wandering Scholars è completato nel 1926, lo stesso anno in cui Maud Clark corona la sua carriera accademica pubblicando The Medieval City State e concorrendo per la Bedford Chair of History. Il successo di The Wandering Scholars è travolgente. 3 edizioni in un anno, gli elogi di medievisti insigni come Haskins, Powick, Eileen Power. Henri Bremond, il grande storico della letteratura religiosa francese, le scrive con disarmante candore. Il vostro libro è stato per me un puro piacere. Mi troverete molto vanitoso, ma leggendolo mi sono detto a quasi ogni pagina. Ma è proprio lei, non sono stato piuttosto io a scrivere questo libro. Ma il mondo accademico ha anche un'altra faccia, assai meno benevola. Vi sono storici che non amano l'incursione di una donna nel loro territorio, soprattutto un'incursione che ha avuto grande successo. L'attacco più frontale viene da G.G. Coulton di Cambridge, un vecchio studioso possente ma piuttosto arido, come lo definisce Helen in una lettera. Il professore non solo la attacca sardonicamente in pubblico in una recensione per l'Observer, ma le scrive informandola che considera il suo lavoro privo di valore scientifico, anche se di indubbio merito letterario, e segnalandole vari errori nelle note. Helen gli risponde ringraziandolo per le correzioni e segnalandogli a sua volta un errore madornale nel suo ultimo libro. «Penso di avergli dato lo shock più forte di tutta la sua vita», scrive alla sorella. Coulton le risponde ammettendo: «È difficile per un vecchio e uno che vede approssimarsi ormai la fine del suo lavoro non provare gelosia». Questa gelosia il vecchio professore è capace di ammetterla ma non di vincerla. Quando la British Academy ventila la possibilità di accogliere Helen Waddell fra i suoi ranghi, è G.G. Coulton che pone il veto. Ma queste sono solo punture di superficie. Non è la malevolenza del professor Coulton ad allontanare Helen Waddell dal mondo accademico. Paradossalmente è proprio lo straordinario successo degli Wandering Scholars che le dà la libertà di scegliere per il suo prossimo lavoro, quello su Abelardo, il medium più congeniale all'immaginazione, il romanzo. Ora Helen non ha più bisogno di credenziali accademiche. La cittadella accademica cede al successo degli Wandering Scholars coprendola di onori. La Royal Society of Literature la elegge fra i suoi membri. L'Università di Durham le conferisce il dottorato honoris causa nel 1931. Nel 1932 è accolta nella Irish Academy of Letters. Dopo la pubblicazione di Peter Abelard nel 1933, sarà la sua alma mater, Queen's, a conferirle il dottorato honoris causa, seguita dalla Columbia University di New York e nel 1936 dalla Università di St. Andrews, e la lista è lungi dall'essere completa. Ma nonostante le porte del mondo accademico sembrino essersi spalancate per lei, Helen sceglie di restarne all'esterno, o meglio, sui margini. Helen accetta gli onori che le vengono conferiti, accetta anche, occasionalmente, di tenere lezioni e conferenze all'università, ma decide di mantenere il suo posto di editor e reader a Constable e di scrivere del suo incontro col passato senza fini accademici, in piena libertà. Helen aveva esitato a lungo se dedicare ad Abelardo una biografia o un romanzo, un testo storico o un testo letterario. Ora è libera di scegliere il medium che le consente di esprimere il più liberamente possibile l'incontro avvenuto tanti anni prima in un letto dell'Istituto Pasteur. Ma come sempre, l'immaginazione di Helen è nutrita dal profondo contatto con le fonti. Peter Abelard, pur nella forma romanzesca, è scritto con puntigliosa aderenza all'evidenza documentaria. Viene anzi da pensare che come la piccola Helen sapeva a memoria le lettere di Paolo agli ebrei, così l'Helen che scrive Peter Abelard sapesse a memoria la Historia Calamitatum e le lettere di Abelardo e Eloisa. La Historia Calamitatum è il testo in cui Abelardo racconta la storia delle sue disgrazie, appunto. Li aveva certamente letti con la massima attenzione. Scrivendo ad un amico che le chiedeva della genesi del romanzo, Helen discute il problema dell'autenticità delle lettere di Eloisa, che era stata messa in dubbio, o come è noto, e che la ricerca più recente ha ristabilito. Helen scrive di essersi convinta dell'autenticità delle lettere dopo aver sottoposto la fonte, cito, al più intimo di tutti i test, la traduzione parola per parola. A questa ravvicinata conoscenza delle fonti si aggiungeva per Helen un profondo coinvolgimento emotivo nella storia di Abelardo e Eloisa. Nel 1928 Helen viaggia con la sorella nella valle della Loira, in quella che chiama la terra di Abelardo. Per scrivere il romanzo vuole vedere i luoghi da cui Abelardo proveniva, i luoghi in cui tornò con Eloisa durante la stagione breve e felice della loro unione. Helen visita la chiesa in cui Abelardo fu sepolto e scrive, cito, «Mi riprese tutta la mia vecchia rabbia per il modo in cui fu trattato da Dio e dagli uomini». Che cosa vede Helen in quest'uomo del XII secolo, questo maestro delle scuole di Parigi morto come eretico? La risposta contenuta nel romanzo è che Helen vede in Abelardo un uomo che, cito, «cercò in tutte le cose la verità». E che, per amore della verità e di un'altra creatura umana, non esitò a rompere con il mondo delle scuole, il mondo delle sue ambizioni filosofiche e teologiche, quel mondo che, proprio ai tempi di Abelardo, andava configurandosi sempre più rigidamente come un mondo senza donne. La tragedia di Eloisa e Abelardo si consuma, secondo Per Ellen Waddell, sullo sfondo di questo mondo delle scuole del XII secolo, i primordi di quel mondo accademico verso cui Helen stessa aveva sempre nutrito profonda diffidenza. Come The Wandering Scholars, anche Peter Abelard conosce uno straordinario successo. Il romanzo ha 15 ristampe in un anno e viene tradotto in 10 lingue. Negli anni dopo Peter Abelard, la ricerca su Eloisa e Abelardo conosce una nuova fioritura. Del 1936 è il fondamentale Eloisa e Abelardo di Étienne Gilson, sotto la cui guida lo Institute of Medieval Studies di Toronto pubblica tra il 1950 e il 1955 la prima edizione critica delle lettere, quel che era stato un sogno di Helen. Forse l'ultima parola sul Peter Abelard di Helen Waddell si può lasciare a Étienne Gilson stesso, il grande storico del pensiero filosofico e teologico medievale, che, nella prefazione al suo libro, chiama il romanzo, cito, «un libro vitale, penetrante, fedele alla realtà». Ed oggi, chi legge per esempio le belle pagine che Peter Drunk ha dedicato a Eloisa nel suo recente Medieval Women Writers, non può che confermare questo giudizio, stupendosi di quanto ciò che viene finemente dimostrato da Drunk su basi filologiche fosse già stato anticipato nel ritratto di Eloisa delineato nel romanzo. Peter Abelard di Helen Waddell resta a ricordarci che ci sono più vie per cercare la verità storica di quelle prescritte dai dettami accademici. Resta a ricordarci soprattutto del fecondo legame fra ricerca e immaginazione storica. Grazie. Ja, das ist natürlich jetzt etwas schwierig bei so einem dichten Referat, aber ich werde versuchen, ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Ich möchte gleich mit dem Ende beginnen, mit der Einschätzung des Buches von Helen Waddell über Abelard, dass das ein ganz entscheidendes, vitales, penetrantes, faszinierendes Buch ist, welches vor allem dafür stehen kann, dass Wissenschaft und Imagination, Forschung und Imagination etwas ist, was unbedingt zusammengehört und dass es verschiedene Zugangs. Das Referat hat im Wesentlichen von dem wissenschaftlichen Werdegang und der wissenschaftlichen Arbeit von Helen Waddell gehandelt und von ihrem berühmten Roman über Abelard aus dem Jahr 1933, den sie bewusst eben als Erzählung bezeichnet hat und als literarisch und nicht als wissenschaftlichen Text produziert hat, auch wenn er ganz zentral auf archivalischen Forschungen basiert. Die Vorarbeit für diesen Roman oder für diese Erzählung war ein anderes Werk, The Wandering Scholars, das also ähnlich erfolgreich war wie dann der spätere Roman und wo aber bereits ähnliche Quellen bearbeitet worden sind. Die Historikerin selbst hat sich schon von früher Jugend dadurch ausgezeichnet, dass sie also sehr poetisch, sprachkundig, vor allem an lateinischen Texten interessiert war und sehr fasziniert für Latein gewesen ist und immer in diesem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Literatur sich aufgehalten hat. Sie wurde in Tokio geboren und war die Tochter eines presbyterianischen Pastors im Jahr 1899, hatte zunächst also nur eine private Ausbildung, wobei der Schwerpunkt auf der Lektüre biblischer Texte lag. Wesentlich scheint mir auch zu sein, dass es eine dichte informative Quelle gibt, nämlich die Briefe an die Schwester, wodurch sehr viel an Primärinformationen über die Frau zu erfahren ist. Und schon als ganz kleines Mädchen hat sie eine Passion für lateinische Poesie vor allem entwickelt und konnte also eine Reihe von lateinischen Texten auswendig, hat also vor allem diese biblisch-religiöse und lateinische Ausbildung als sehr prägend für ihr weiteres Leben erfahren, kam dann mit 11 Jahren nach Europa, studierte in Belfast, wenn ich mich nicht richtig erinnere, wobei ihre Begabungen für Mathematik und literarische Fächer ähnlich groß waren. Sie hat dann eben wie üblich einen männlichen Förderer, Gregory Smith, dort vorgefunden, der es aber immer wieder versucht hat, sie eher bei der Literatur zu halten und sie nicht in die Wissenschaft einzulassen. Interessant schien mir hier besonders auch diese Beziehung zu einer zweiten Frau, die ihre gute Freundin wurde, Maud Clark, die im Gegensatz zu ihr eine wirkliche wissenschaftliche Karriere gemacht hat, während sie es im Laufe ihrer Ausbildung vorgezogen hat und ihres wissenschaftlichen Werks vorgezogen hat, außerhalb der akademischen Welt zu bleiben. Mitbedingt vielleicht aufgrund dieses Spannungsverhältnisses zwischen Literatur und Wissenschaft, wo sie sich nie genau festlegen wollte. Sie hat auch ein Faible für Übersetzungen gehabt und hat also auch hier Wesentliches geleistet. Dann kam also ein kurzer Blick über die Situation der Frauen generell an den englischen Universitäten, die noch sehr stark vom Suffragettentum zunächst einmal geprägt waren und wo beide Frauen also sehr viele Widerstände und misogyne Reaktionen vorgefunden haben. Maud, die Freundin, schafft also die akademische Laufbahn, bekommt zuerst interimistisch eine Professur, eine Kathedra, ist nicht genau zu klären, was das jetzt genau in der englischen Universität ist, und schafft also zumindest auch in der späteren Beförderung dann die höheren akademischen Würden. Helen selber bemüht sich um Assistentenstelle bei ihrem Förderer Smith, erreicht es zunächst nicht, dann im Jahr 1919 doch. Entscheidend war für sie dann schließlich die Möglichkeit, mittels eines Fellowships von Oxford in Paris zu forschen über die Clerici Vagantes und damit also zu den lateinischen Quellentexten hingeführt zu werden, wovon dann eben auch ihre späteren Forschungen bzw. literarischen Ausarbeitungen ausgegangen sind. Und hier hat sie nun mit diesen Texten ihre zweite Begegnung mit Abelard, hat sich hier ereignet, den sie ja schon als Kind sehr faszinierend gefunden hat. Und sie setzt sich derartig in diese Texte und in diese Begegnung hinein, und da gibt es interessante Quellen, dass sie selbst Eloise wird und sich als in einer Nacht, wo sie sich besonders mit Abelard beschäftigt, selbst als Äbtissin fühlt. Damals schon ist ihr bewusst, dass das eigentlich Faszinierende an der wissenschaftlichen Arbeit für sie die Verbindung zwischen Forschung und Kreativität ist und dass die Imagination mit den Quellen das Entscheidende ist, was in der letzten Endes Produktion der Arbeit dann herauskommen soll. Die erste Publikation ist The Wandering Scholars, die bereits ein großer Erfolg wird, und sie kehrt dann nach London zurück, nachdem dieses Fellowship zu Ende ist, und entschließt sich dann eben nicht die akademische Laufbahn einzuschlagen. Sie reicht diese Arbeit auch nicht als Dissertation ein, weil sie publizistisch erfolgreich genug ist. Sie arbeitet dann in einem Verlag und hat also quasi nicht mehr nötig, hier nun sich den akademischen Querelen auszusetzen, während die Freundin also den Chair of History bekommt. Dieser große Erfolg des ersten Werkes veranlasst sie dann also, diesen Roman über Abelard zu schreiben. Hier wird sie dann zunächst attackiert, besonders von einem etablierten Historiker namens Coulton, der ja also Ungenauigkeit in den Anmerkungen vorwirft, und sie widerspricht dem dann auch, und es kommt also zu einer wissenschaftlichen Fußnotenauseinandersetzung, wie sie ja bekannt ist. Trotzdem erfährt sie also alle akademischen Würden, kriegt also Doktorate honoris causa, wird in die Royal Academy aufgenommen und kommt also so quasi von hinten herein in die hohe akademische Welt dennoch, auch wenn sie nicht den Weg über die Universität nimmt. Sie zieht es vor, am Rand und draußen zu bleiben, lehrt ab und zu, geht aber ihren eigenen Weg. Wissenschaftlich ist noch von Bedeutung, dass sie die Authentizität der Briefe von Heloise wissenschaftlich bestätigt und beweist, an deren Authentizität ursprünglich gezweifelt worden war. Und natürlich verbindet sie diese ihre Leidenschaft für Abelard auch mit Reisen hin zu seinem Grab. Dann zuletzt noch die Frage, was sie in ihm eigentlich gesehen hatte und hier vor allem also den Wahrheitssucher, der es eben verschmäht hat, sich in irgendeine Schule einpressen zu lassen und der sich jenseits aller Schulen seinen eigenen Weg gesucht hat, eine Art von Identifikation, auch wenn man so will, wie sie selbst es ja auch gemacht hat. Und dass letzten Endes auch diese Liebe zwischen Abelard und Heloise an dieser Rigidität der Schulen möglicherweise gescheitert ist und der wirklich entscheidende Weg, den sie selbst eben auch geht, jenseits der Schulen oder zwischen den Schulen, nämlich der eigene sein muss. Ja. Und tentativo. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Yes.